Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti dalla redazione di Cuore e Denari. Allora, 1.010 piccoli risparmiatori, persone con meno di 100.000 euro di risparmi presso la banca ed una concentrazione di obbligazioni subordinate emesse dalle stesse banche superiore alla metà del proprio patrimonio. Sono i casi più esposti, più rilevanti delle quattro banche coinvolte nel salvataggio del governo. Lo 0,1% dei clienti complessivi di queste banche. Il controvalore di queste obbligazioni subordinate è diventato 27 milioni di euro. Insomma, abbiamo fornito un perimetro, non l'abbiamo in realtà realizzato e disegnato noi, ma questo perimetro delle situazioni personali più delicate è stato fornito sabato scorso dalla nuova struttura, il cosiddetto fondo di risoluzione delle quattro banche salvate: Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Marche e Banca dell'Etruria. Questo fondo di risoluzione, appunto, lo sapete, è diretto da Roberto Nicastro. Ma a parte queste prime cifre che abbiamo dato, non dobbiamo dimenticarci che tutta la vicenda coinvolge complessivamente oltre 10.000 obbligazionisti ed oltre 130.000 azionisti delle quattro banche. In totale, tutte queste persone, ribadiamo appunto, complessivamente fra azionisti ed obbligazionisti, hanno investito quasi 800 milioni di euro. E questa vicenda consegna al paese la rabbia, quindi, di migliaia di italiani che avevano riposto la propria fiducia in quegli investimenti proposti come sicuri. Allora, tra le conclusioni che si possono trarre da questa storia, l'importanza per il risparmiatore di una verifica attenta delle caratteristiche dei prodotti offerti dalle banche e anche una riflessione sul ruolo che svolgono gli organismi cui spetta la verifica di un'effettiva corrispondenza fra tipologia di offerta e profili di rischio. E infine la paura, sempre più diffusa, che altri casi del genere possano essere pronti a scoppiare. E allora la domanda è: come riconoscere i prodotti a rischio? Parleremo di tutto questo a Cuore Denari oggi, ma anche nei prossimi giorni, aggiornando gli ascoltatori sulle novità e sulle iniziative istituzionali che potranno arrivare in tutela dei risparmiatori coinvolti. Iniziative istituzionali, diceva Nicoletta, effettivamente è quella più importante, questo emendamento alla legge di stabilità che è stato appunto firmato ed introdotto sabato scorso dal Ministero dell'Economia, che contiene proprio la norma per l'istituzione del fondo di salvataggio per i piccoli obbligazionisti. Un fondo che naturalmente ha una determinata capienza, di conseguenza non è sufficiente per tutti, e questo è già un primo aspetto sul quale stamattina ci soffermeremo. Bisognerà capire con che criteri i risarcimenti verranno stabiliti. Peraltro, ovviamente, prima che poi questo fondo sia pienamente operativo passeranno altri mesi, non lo vedremo operativo probabilmente prima di marzo. Commenteremo anche nel corso di Cuore Denari questa mattina le parole di Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, che ieri, intervenendo ad una nota trasmissione di Rai 3, ha detto che occorre vietare per legge la vendita ai piccoli risparmiatori di questo tipo di prodotti. E poi che cos'altro è successo nel weekend? Sì, l'incontro ieri alla Leopolda tra il ministro Padoan e un gruppo di risparmiatori. E noi ne sentiremo proprio alcuni di questi, una portavoce anzi di questo gruppo di risparmiatori, che non ha fatto solo la portavoce di questo gruppo, ma è anche lei stessa titolare di un po' di obbligazioni sottoscritte presso la Popolare dell'Etruria, per cui insomma tanti argomenti stamattina da affrontare. Manterremo, lo ribadisco, lo abbiamo già anche indicato sul Sole 24 Ore di questi giorni, un focus per qualche giorno su questo argomento, per capire che direzione prende il dibattito, ma soprattutto che direzione prendono le iniziative di tutela dei risparmiatori coinvolti in questi quattro simil crack, chiamiamoli così. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Presento gli ospiti che ci accompagneranno in questa prima puntata. Nei prossimi giorni ne avremo altri, naturalmente. Altri: l'avvocato Domenico Gaudiello, partner dello studio legale DLA Piper, esperto in contenzioso finanziario, ci ha già fatto compagnia giovedì scorso. Lo risalutiamo. Avvocato buongiorno Gaudiello, buongiorno e grazie. Buongiorno, si sta bene a Cuore Denari, eh? Perché si torna con piacere. Esatto, magari la prossima volta la invitiamo per argomenti più gradevoli, certo, avvocato Gaudiello. Però abbiamo bisogno della sua chiarezza e delle sue indicazioni. Infatti, quindi questa è un'ottima opportunità anche per i nostri ascoltatori. Così come ne è ottima l'opportunità di avere di nuovo con noi stamattina Alessandro Pedone, consulente finanziario indipendente e anche responsabile della tutela del risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Pedone, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i nostri. Bentornato. Ha consegnato proprio alle mail pochissimi istanti fa un altro comunicato che porta la sua firma, ma che naturalmente è a nome della intera associazione dei consumatori. Vi leggo solo il titolo, poi lo commenteremo insieme. Salva Banche, fondo di solidarietà per i risparmiatori. Sarà, si chiede Pedone, l'ennesimo papocchio? Lo capiremo stamattina. 800 24 00 24, il numero verde anche stamattina, come sempre, a vostra disposizione. Anche noi vogliamo dare voce, insistere su questa vicenda con le vostre domande, le vostre testimonianze, le richieste di chiarimento, riflessioni, perché non si corra il rischio che il faro puntato su questa storia in questi giorni si spenga troppo in fretta. Allora, avvocato Gaudiello, io comincerei subito con lei, ci dia immediatamente la sua consulenza legale. Partiamo dal testo di questo emendamento. Io ce l'ho sotto gli occhi, ovviamente, naturalmente, la mia capacità di analisi di questi termini tra il politico, il giuridico e quant'altro è sempre molto limitata, perché abbiamo per forza bisogno della consulenza legale. L'emendamento che porta la firma del ministro Padoan, hanno inserito in legge di stabilità con qualche novità intervenuta anche nel corso della notte. Abbiamo appreso che appunto entro marzo sarà operativo questo fondo da 100 milioni di euro a tutela dei risparmiatori. Un subemendamento stabilisce anche il termine per i decreti attuativi che il Ministero dell'Economia poi dovrà attuare. Abbiamo sempre i soliti 90 giorni, ma ci dia qualche dettaglio in più. 100 milioni di euro per ristorare proprio, è stato detto, usato, sui giornali, sì, in questi giorni, piccoli risparmiatori che hanno investito in obbligazioni subordinate. In che modo, che caratteristiche dovrebbe avere questo fondo di solidarietà? Ecco, vediamo intanto chi potrebbe avere diritto a questo fondo, perché c'è scritto che è vero che vale per tutti quelli che hanno obbligazioni subordinate, ma vale soltanto nel caso in cui si tratti di persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori agricoli o coltivatori diretti, quindi non tutti gli obbligazionisti, ma soltanto nel caso in cui si tratti di persone fisiche, insomma imprenditori piccoli ed agricoli. Questo per, diciamo, dare la misura anche della sensibilità del governo nei confronti di chi più di altri ha sofferto dal punto di vista della vita quotidiana, diciamo, della perdita economica. Ed è già, diciamo, un punto importante, perché ritorna il concetto di misura umanitaria, cioè non per tutti è stata uguale la perdita, perché a parità magari di perdita c'è qualcuno che aveva solo quei soldi e quindi non poteva fare fronte diversamente alla vita quotidiana. Altra cosa importante, è previsto che la attribuzione sostanzialmente di un indennizzo, di questo indennizzo, sia comunque entro un massimo da fissare, quindi non è ancora chiaro quanto sarà il massimo di indennizzo consentito, ma senz'altro, diciamo, l'indennizzo non sarà integrale, quindi gli obbligazionisti che sono interessati a questa misura devono considerare il fatto che se la norma è questa, non potranno mai riavere indietro. Di una parte di perdita dovranno sobbarcarsi sostanzialmente, anche se saranno ritenute vittime completamente inconsapevoli di un investimento di questo tipo, avvocato, almeno a giudicare dalle prime indicazioni che abbiamo dal provvedimento. Poi c'è un altro aspetto che emerge dall'emendamento, poi darò qualche brevissimo commento, e cioè è previsto che ci sia una procedura arbitrale per l'attribuzione di questi indennizzi. Che significa, a differenza di quello che magari possiamo immaginare per il fondo di tutela dei depositi bancari, cioè è automatica in qualche modo la restituzione di quanto è rimasto, di quanto, diciamo, è stato intaccato, nel caso di specie non c'è una restituzione automatica, c'è comunque una procedura arbitrale, certo. Quindi bisognerà seguire una procedura. Non basterà una sorta, come dire, di autocertificazione e dire io sono vittima di questa situazione, ho investito tot, mi spetta tot, no, in realtà ogni caso andrà valutato appunto personalmente, individualmente, bisognerà anche capire chi sarà questo arbitro, ecco, avvocato Gaudiello, terzo punto importante. La Consob. I tempi. Esatto. Non sarà la Consob, almeno apparentemente la norma, diciamo, di cui stiamo parlando, meglio, la bozza di norma, prevede che siano nominati ad hoc degli arbitri di provata indipendenza, imparzialità, professionalità e onorabilità, e a questi, che magari potranno appoggiarsi anche alle attuali organizzazioni che già esistono per le procedure arbitrali, a questi soggetti sarà affidata la materia di decidere la misura dell'indennizzo. È previsto altresì che bisognerà in ogni caso accertare, e questa è un po' sibillina come frase, bisognerà in ogni caso accertare quella che sarà la responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza. Mi spiego subito, cioè sembrava che prima di fare questa precisazione bastava essere obbligazionisti, persone fisiche, che hanno subito una perdita, e sulla scorta di questa situazione si poteva immaginare di accedere all'indennizzo. No, la procedura arbitrale dovrà dimostrare che vi è stata una responsabilità in capo alla banca che ha collocato il prodotto, e solo per effetto di questa responsabilità dovrebbe spettare all'obbligazionista l'indennizzo atteso, richiesto. Faccio notare due cose, ma per la chiarezza diciamo anche degli investitori: noi abbiamo già in Italia la regola che prevede che in caso di litigio in tema di investimenti si ricorra all'arbitro bancario, ecco, sì, l'arbitro BR, sì. N, in realtà N arbitri possono essere, esatto, sia quelli presso la Banca d'Italia, presso la Consob, sia organismi di conciliazione privatamente costituiti ma autorizzati dal Ministero dei Casi. E quindi lei dice: ne costituiamo un altro? Ecco, e questo è opportuno, un punto su cui riflettere. Poi è chiaro, la quantificazione in qualche modo dell'indennizzo, questa rischia di essere una questione problematica. Per una fermo, avvocato Gaudiello, questa questione problematica, perché adesso abbiamo già il traffico. Leggevo anche sui giornali in questi giorni che fra i requisiti per accedere al fondo si vorrebbe dare peso anche alla condizione reddituale del singolo risparmiatore, quindi all'ISEE non vorrei che diventasse un'altra ennesima guerra tra poveri. Vedremo appunto su questi aspetti quanto ne sappiamo fino a questo momento. Chiederemo anche perché le associazioni dei consumatori immaginano già che questa costituzione di questo fondo possa essere l'ennesimo papocchio, come l'ha definita Alessandro Pedone. Da lui ripartiamo dopo. Subito dopo le informazioni sul traffico, vi aspettiamo. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme a seguito del cosiddetto decreto salva banche che ha inguaiato decine di migliaia di risparmiatori. Sono iniziati a volare gli avvoltoi che speculano sulle disgrazie altrui. Già si leggono sui giornali paginate di avvocati o presunti tali che sbandierano centinaia di fantomatiche sentenze vinte contro le banche, che chiedono acconti, spesso tra l'altro in contanti, per iniziare cause che promettono essere vincenti. Alessandro Pedone, oltre al danno alla beffa, quella che ho letto è un po' la sintesi di un vostro comunicato diramato nel fine settimana, in cui invitate a fare attenzione anche su questo, perché le persone che vivono queste tragedie sono soggette in uno stato di particolare fragilità, di debolezza psicologica, e tendono quindi a credere più facilmente a coloro che gli prospettano il facile successo legale. Voi li chiamate i professionisti della ritruffa, è corretto? Noi parliamo invece del vostro servizio gratuito di primo intervento legale per coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda. Ne parleremo nel corso di Cuore Denari, naturalmente, e quindi invito gli ascoltatori a chiamarci. Ma mi spiega quel papocchio, quel titolo a cui accennava Deborah, perché ha già acceso la curiosità di molti ascoltatori. Sì, diciamo, non è la prima volta purtroppo in Italia che si annuncia fondi che dovrebbero tutelare chi sono coinvolti in situazioni di risparmio tradito. Nel 2005, ad esempio, ne furono annunciati non uno ma addirittura due, a distanza fra l'altro di pochi giorni. Uno era proprio un fantomatico fondo che doveva arrivare fino a 10 miliardi, fu veramente una sparata che poi finì nel nulla. Quello dopo invece teoricamente era un po' più serio e fu annunciato con la legge 262 del 2005, quella sul risparmio di Tremonti. Poi varie vicende fino al decreto legislativo 179 del 2007, che ha effettivamente costituito un fondo, e quindi esiste un fondo per queste cose presso la Consob, con il piccolo particolare che non è mai stato finanziato. Quindi bastava finanziare quello e potenziare lo strumento di arbitrato che dovrebbe partire proprio presso la Consob tra presumibilmente poco tempo, esatto. Anche qui ci sono una serie di decreti che devono essere, prima ancora di norme che devono essere completate e poi di decreti attuativi. Il discorso del papocchio è proprio questo, cioè esisteva già un fondo, se ne annuncia un nuovo fondo, ci si dice che devono esserci uno o più decreti che dovranno disciplinare tutte le modalità di accesso a questo fondo, quindi quello che abbiamo detto nella precedente parte della trasmissione sono tutte ipotesi, perché in realtà di concreto non sappiamo ancora assolutamente niente. Sappiamo soltanto questa cosa, che non è per tutti ma soltanto per le persone fisiche, imprenditori agricoli eccetera eccetera, quindi esclude una platea, ma non sappiamo niente circa i dettagli di accesso a questo fondo. Sappiamo che è un fondo che è vero che è finanziato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quindi in teoria dal sistema bancario, ma attenzione perché c'è il trucchetto, in realtà lo paghiamo noi comunque, perché negli stessi emendamenti sono stati approvati degli sgravi fiscali, esatto, che hanno più o meno lo stesso valore di circa questi 100 milioni di euro, quindi in realtà diciamo abbiamo fatto questa cosa perché l'Europa non ci dica che è un aiuto di Stato, ma da una parte le banche mettono i soldi, dall'altra parte siamo sempre noi comunque cittadini che paghiamo questa cosa. Gli sgravi fiscali a cui si riferisce, leggo questa agenzia, dottor Pedone, sono per le banche in crisi che saranno sottoposte al bail-in dal 2016, ma anche sgravi fiscali per le banche che aderiscono al fondo di risoluzione delle crisi bancarie per il salvataggio di altri istituti. Quindi in qualche maniera poi il governo mette la mano nelle proprie tasche, nel proprio portafoglio, non si capisce perché a questo punto non valesse la pena ampliare direttamente il fondo, renderlo capiente al punto da poter ristorare tutti quanti gli obbligazionisti coinvolti, certo, direttamente, che dice? Certo, certo. Quindi ecco, il discorso del papocchio nasce da, è l'ennesimo annuncio, speriamo che questa volta vada bene, ma il passato non è che ci dia queste grandi certezze, queste grandi speranze in questo senso. Ecco. L'ipotesi legata all'ISEE che ne dice invece? Ma il concetto è questo, se deve esserci un arbitrato che dice che una banca ha commesso delle violazioni della normativa in materia di intermediazione finanziaria, ma per quale ragione se c'è una violazione il povero deve essere eventualmente risarcito e il ricco no? Ma cioè, qui stiamo parlando di regali o stiamo parlando di applicazione del diritto? Se c'è un arbitrato che stabilisce che c'è una violazione, questa violazione deve essere risarcita e deve essere risarcita dalla banca responsabile. Qui abbiamo una banca responsabile, perché la nuova banca che ha ereditato tutto il buono dalle vecchie ha ereditato i contratti e con i contratti deve aver ereditato ovviamente tutta la responsabilità connessa a quel contratto stesso. Chiaro. Quindi se c'è una violazione, questa violazione deve essere pagata, ISEE o non ISEE, fondo di solidarietà o non fondo di solidarietà, il concetto è questo. Ciò che dobbiamo aspettare è la certezza del diritto, non la carità. È questo il concetto di base. Allora, intanto la certezza del diritto e non la carità, questo è veramente, lo prendiamo come nostro nuovo slogan. Allora, tra l'altro, WhatsApp ci stanno esplodendo, tanti messaggi. Tantissimi, al 349-238-6666. Domanda che ricorre, leggo quella che ci ha fatto Giuseppe. Quelli che hanno le obbligazioni subordinate si devono preoccupare anche loro. Giuseppe ci scrive che ne alcune, non so come si deve comportare visti i recenti fatti, certo, l'entrata del bail-in. Allora Pedone, questo è un altro tema molto delicato per cui ci serve la sua consulenza più che da come dire, da associazione dei consumatori, anche da consulente finanziario indipendente, perché naturalmente lei ci tiene soprattutto che si specifichi questa sua caratteristica. Allora, ci sono un'altra decina di banche commissariate in Italia, c'è una lista pubblica sul sito appunto della Banca d'Italia e sono banche che teoricamente sono nella medesima condizione in cui si trovavano le quattro famose oggetto del decreto salvabanche di qualche settimana fa, di due settimane fa, tre settimane fa, non mi ricordo adesso esattamente quando è stato varato il decreto, il 22 novembre mi sembra. Allora, chi ha obbligazioni subordinate sottoscritte presso gli sportelli di queste nove banche si deve preoccupare? Vogliamo mettere un po' di pulce nell'orecchio alle persone, ma soprattutto il tema è se queste persone oggi preoccupate da tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni volessero andare a disinvestire, ecco, questi soldi, perché il punto è che le banche in questione non li fanno disinvestire questi denari, che è la situazione nella quale si sono trovate anche molte persone che in questi giorni si sono trovate private di tutto il loro denaro, ma che il denaro, ma che in realtà stavano da mesi stavano già chiedendo tempo di rientrare del loro denaro, come la situazione del pensionato di Civitavecchia, sul quale torniamo sempre. Pedone, non lo strumentalizziamo anche noi come hanno invitato a fare, ed è corretto che sia così, però la situazione è un po' questa. Tra l'altro devo andare anche in pausa adesso, ho fatto tutto questo ragionamento, ma 5 secondi Pedone, poi la faccio riprendere dopo il giornale radio insieme a Maurizio. Senza creare allarmismi, ma certamente sono situazioni che vanno analizzate molto bene e poi magari dopo la pausa possiamo, ecco, affrontare la cosa meglio, però sono cose da analizzare con molta attenzione. Però un minuto ce l'ha, guardi, mi stanno dando adesso il tempo, a 57 devo chiudere, allora, vuole già... Allora, se ho un minuto di tempo, sì. La cosa importante è prima di tutto essere certi di una buona diversificazione. Se dobbiamo avere obbligazioni subordinate, dobbiamo essere consapevoli dei rischi, perché dei rischi ci sono, e queste non devono mai pesare più dell'1% al massimo del complesso del nostro portafoglio, in modo che se succede qualcosa possiamo perdere un po' di interesse complessivo del portafoglio, ma certamente non perdite che possono intaccare il nostro stile di vita. Questa è la prima regola, una amplissima diversificazione. Dopodiché bisogna essere ben consapevoli di cosa abbiamo comprato, cioè l'investitore deve capire il rischio a cui va incontro, e con il bail-in che parte che è già partito, perché sostanzialmente con queste quattro banche è già stato una sorta di bail-in, anche se la legge parte dal 2016, effettivamente il rischio di perdere, di partecipare con perdite di capitale è un rischio che è concreto, mentre fino a 3-4 anni fa questo rischio era un rischio abbastanza ipotetico. Ecco. Benissimo per niente. Ci fermiamo adesso perché è già tempo di dare la linea al giornale radio, poi sì, c'è un ascoltatore pronto, tantissimi messaggi come naturalmente ci aspettavamo. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre, lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, stiamo dedicando una puntata speciale di Cuore Denari all'emergenza del momento, alla situazione in cui si trovano quei risparmiatori italiani che a seguito del decreto salvabanche hanno perso tutto o gran parte dei loro risparmi. Oggi commentiamo in diretta le iniziative del governo, la creazione del fondo di solidarietà che dovrebbe almeno indennizzare le persone che sono state evidentemente mal consigliate e che quindi hanno investito praticamente tutto il loro denaro in singole obbligazioni e hanno perso i risparmi di tutta una vita. Come funzionerà questo fondo? Stiamo cercando di capirlo sulla base chiaramente delle notizie che abbiamo fino a questo momento. Chi avrà diritto ad una restituzione integrale del capitale, chi invece solo parziale? Cosa suggeriscono di fare le associazioni dei consumatori? 800 24 00 24, il numero verde che continua ad essere a vostra disposizione fino al termine di Cuore Denari. Questa mattina con noi ci sono Alessandro Pedone, consulente finanziario indipendente responsabile della tutela del risparmio dell'associazione dei consumatori ADUC, che come le principali organizzazioni dei consumatori hanno già predisposto un presidio rafforzato dei propri sportelli, e poi l'avvocato Domenico Gaudiello, partner dello studio legale DLA Piper. Mi sento di dire che non è tra quegli avvoltoi che indicava prima Pedone del mondo legale, perché poi ovviamente si generano anche commenti sgradevoli su questo, ma insomma l'avvocato invece in termini molto chiari ci sta aiutando a decifrare cosa contiene le norme, soprattutto questo emendamento disposto in legge di stabilità che dovrebbe creare questo fondo di solidarietà. Ma avremo naturalmente ancora molte settimane di tempo prima di vederlo in tutta la sua realizzazione, perché ci sono chiaramente poi decreti attuativi e la piena operatività non sarà possibile vederla proprio prima di marzo, presumibilmente, almeno a giudicare dei tempi legislativi che sono sempre necessari. In apertura della nostra trasmissione abbiamo ricordato anche di un gruppo di risparmiatori che alla Leopolda nel weekend ha incontrato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Portavoce di questo gruppo, ma anche malcapitate investitrici in obbligazioni subordinate emesse dalla Popolare dell'Etruria, c'è un'amica di Cuore Denari, ormai questa mattina la possiamo definire così, Letizia, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Ero indecisa se dare il cognome o meno, ma è irrilevante questo. Ci racconta Letizia come è andato l'incontro col ministro Padoan? Allora, l'incontro ci ha soddisfatti nella misura in cui comunque ci ha incontrato, ecco, specifichiamo questo, però non ci lascia assolutamente contenti, diciamo così. Cioè, noi chiediamo in qualche maniera che si trovi una soluzione per tutte le 130.000 persone coinvolte nell'azzeramento di queste obbligazioni e azioni, anche perché qui si deve recuperare un danno, ma un danno che non abbiamo fatto noi, quindi noi trovo assurdo che siamo poi portati in prima persona a ripianare i danni fatti da altri, ecco. Quindi sinceramente questo. Poi in questi giorni che la storia è venuta fuori, si sentono commenti anche alcuni fuori luogo sul fatto che comunque siamo speculatori o che cosa, credo che questo sia, al di là che poi ovviamente non posso garantire per tutti, ma il nostro gruppo è fatto da persone che comunque avevano azioni o obbligazioni subordinate che non prevedevano, certo, quello che loro hanno firmato, dico io, quello che noi abbiamo firmato, anch'io appunto, come si diceva prima. Ecco, allora ci racconti la sua storia, Letizia, ce la può raccontare? Certo. Quando ha sottoscritto questa obbligazione, lei mi pare, appunto, dicevo, con la Popolare 2000, esatto, 2006. Sì, in che periodo? Che ha fatto tanti morti, morti nel senso figurati, che è quella che ha colpito di più i risparmiatori. Nel 2007, considerate che noi eravamo correntisti, no? Cioè non è che siamo andati, eravamo correntisti della banca, e nel 2007 abbiamo sottoscritto questo bond, diciamo così, che rendeva allora il 4% lordo, lordo intendo, che se uno si fa un attimino un conto, per il periodo in cui è stato sottoscritto aveva un rendimento normale, cioè aveva un rendimento quanto poteva a pari emissione rendere un titolo di Stato. Sì, quanto un BTP, noi... presumibilmente, dovremmo andare a rifare un parallelo, però, quindi insomma lei non è andata lì proprio con l'approccio dell'investitrice aggressiva. Esatto. Assolutamente, mi occupo di altro, è vero, però alla fine, anche se mi occupo di altro, non c'era quel tasso che diceva, beh, certo, il 7%. Alcuni mi hanno fatto dire, hanno detto che hanno controllato il mio titolo e hanno detto, dice, quello della signora era il 7%. Gli alcuni li conosciamo, sappiamo che lei si riferisce ad una nostra trasmissione radiofonica in cui un collega appunto dice di essere andato a monitorare, a controllare un po' più attentamente il prospetto informativo del suo investimento. Detto questo, Letizia, mi interessa capire come è avvenuto nel 2007 il momento della sottoscrizione di questa soluzione di investimento per lei. Lei ha firmato la profilatura perché sa che c'era tutta la questione della MiFID e poi, siccome questo è un altro tema che è quello sul quale è stato puntato il riflettore, riferendosi al caso sempre del povero pensionato appunto di Civitavecchia, le è stato chiesto negli anni successivi di modificare il suo profilo di rischio per rendere adeguata questa obbligazione? Sì, sono interrotta. Assolutamente no, però. Ecco. È questo a lei il punto. No. Assolutamente no. Ma guardi, io non a parte che. Beh, anche perché se l'avessero fatto, in realtà forse le poteva venire anche suonare qualche allarme, certo. No? Che dice? Ma al contrario, guardi, le dico questo: al contrario, quando poi le notizie su Banca Etruria alla fine, si susseguivano e non avevamo più dubbio su quello che stava succedendo, noi siamo andati più volte in banca a dire che dobbiamo fare, la situazione, e ci hanno rassicurato, ma con quell'espressione, come dire, che scemotte, ma vuoi veramente vendere a questi prezzi adesso? Aspetta la scadenza dell'obbligazione e perlomeno insomma non ci rimetti. Ecco, ci abbiamo rimesso tutto, certo. Ma questo guardi che è avvenuto 2 mesi fa, 1 mese fa. Sì, infatti. Senta Letizia, l'ultima cosa, poi lascio la parola anche agli altri ascoltatori, certo. Perché in tanti la ringrazio naturalmente per aver di nuovo speso le sue parole per noi. Cosa farà lei adesso? Aspetterà il fondo di solidarietà? Agirà in maniera diversa contro la banca? Si farà affiancare da un'associazione dei consumatori? È chiaro che è ancora un po' a caldo, è difficile non stabilire quello che si può fare. È evidente che, come dire, il suggerimento più di buon senso è quello di aspettare di capire anche che forma assumerà questo fondo di solidarietà, eccetera. Ma io infatti verosimilmente farei così, aspetterei di capire. Sicuramente noi andiamo avanti tenendo alta l'attenzione. Per questo ringrazio gli organi di informazione, ringrazio voi giornalisti, perché è fondamentale far questo, è fondamentale far chiarezza, anche perché adesso non ci dimentichiamo, verranno attuate altri provvedimenti che veramente renderanno le banche non solide, non sicure. Se questi sono stati i criteri di valutazione e di risoluzione di queste banche di Banca Italia, l'ho già detto, forse a voi neppure Unicredit ha quella solidità che ci si aspetta. E allora che cosa dobbiamo pensare? Non lanci queste bombe a mano qua in diretta, perché sennò... Beh, noi cercheremo di fare ovviamente tramite persone che si occupano di questo, esperti in materia, cercheremo di fare una corretta informazione anche, certo, anche perché chi ha questa lucidità deve metterla a disposizione ovviamente invece delle persone, no Nicoletta, più fragili, quelle che abbiamo prima identificato. Lo sai che noi investiamo sempre nella prevenzione, questo vale per la salute ma vale naturalmente anche per i nostri soldi, più deboli e la prevenzione si fa attraverso l'informazione e la chiarezza, concetti che noi dobbiamo conoscere e soprattutto metabolizzare per diventare proprio dei soggetti attivi della nostra salute, ma in questo caso dei nostri Esatto, e magari nei prossimi giorni interpelleremo anche qualche esperto più di cuore proprio per capire anche poi come tutte queste, come queste qualità si possono incentivare. Allora, che cosa? Saluto Letizia, grazie Letizia, ci sentiremo più avanti sicuramente. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata Letizia. Chi andiamo sentiamo? Alberto? Sì, da Como. Esatto. Buongiorno Alberto. Perché solleva un'altra questione sulla quale probabilmente Alessandro Pedone avrà da dire la sua. Sì. Alberto, eccola qua. Sì, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie di darmi spazio. Io ho 73 anni e sono abbastanza scafato da tutte queste cose qua. Sono convinto che andrà a finire tutto in una balonda se, come è finito il discorso dell'adeguamento delle pensioni, quelle che hanno portato via i soldi alla Corte dei Conti, ha condannato il governo a pagare, ha pagato i poveretti e gli altri li hanno lasciati nel dimenticatoio, una tantum e arrivederci. Quindi secondo me, purtroppo, conoscendo l'Italia come funziona, sono molto negativo su una soluzione che possa dare soddisfazione a questi poveri diavoli. Ma no, guardi, su questo io non credo, perché che cosa vuole che le dica Alberto? Come organi di informazione noi daremo battaglia, che poi non si dica appunto che non ci si è lavorato anche sul mantenimento di un adeguato, come l'abbiamo chiamato prima, riflettore su queste vicende. Io lo ribadisco, poi perché stamattina come al solito ci sono molti ascoltatori che dicono nessuno parla per esempio delle altre 9 banche che sono commissariate da tempo, ma perché non dite i nomi? Adesso io ve li dico, ma veramente Plus 24 del Sole 24 Ore sono almeno 5-6 anni che mantiene un'attenzione ossessiva quasi su queste vicende. Purtroppo non tutti leggono questi giornali, ma nessuno può essere ovviamente obbligato a farlo, a documentarsi come ti deve. Ci si fida con la banca del territorio, i problemi sono tanti. Detto questo, sul fatto che entro poco poi non si parlerà più di queste vicende, Alessandro Pedone, in realtà sui grandi crack finanziari, sui casi clamorosi di risparmio tradito, certo non trovano lo spazio ogni giorno su tutti i giornali, ma le associazioni dei consumatori continuano a lavorare ancora oggi su i bond argentini, su Parmalat, su Cirio, e molti legali delle associazioni dei consumatori continuano ancora ad ottenere sentenze favorevoli ai risparmiatori davanti a molti tribunali. Se ne parla meno perché poi sono casi singoli, ma non è detto che ancora qualche risultato si stia raggiungendo e che ancora si lavori molto su questi fronti. Pedone. Sì, certo. Forse i risparmiatori o le persone in generale confondono quello che sono i primi temi dei media con cui si apre i telegiornali o le prime pagine dei giornali rispetto all'informazione generale, perché c'è tutta una serie di informazione specialistica che però è accessibile a una fetta molto piccola di persone. Quindi quando dicono non se ne parla più, non intendono non se ne parla in generale, ma probabilmente intendono non lo sentono aprire il telegiornale. Però è anche ovvio che le primissime informazioni necessariamente seguono una logica che è una logica dei media normali, insomma. Senta, Pedone, di responsabilità, cioè bisogna anche cercare di capire che il risparmiatore stesso deve cercare di essere un po' più informato, deve cercare di prendere anche un po' su di sé la responsabilità, oltre che sul sistema, eccetera. È un po' un mix di cose per cui dovremmo fare un po' tutti un passettino avanti. La storia di Letizia, che ci raccontava che nel 2007 ha sottoscritto un'obbligazione della Pope Etruria che rendeva intorno al 4%, è la storia di una speculatrice, Pedone? Ma assolutamente no. Qui se dobbiamo essere un po' seri, come stiamo in questa trasmissione, dobbiamo dire che le obbligazioni subordinate qualche anno fa non avevano minimamente il profilo di rischio che poi hanno, come dire, avuto successivamente a seguito di normative europee che hanno identificato in queste obbligazioni qualcosa che per loro natura in emissione non erano, perché queste obbligazioni erano obbligazioni che potevano prevedere il mancato pagamento del capitale solo a condizione che le banche fallissero e quindi, diciamo, venivano pagate dopo le obbligazioni senior. Poi successivamente, a seguito dei crack bancari, in particolare la vicenda del 2011, dal 2011 in poi, la Germania sostanzialmente ha stabilito che per il salvataggio delle banche, dopo aver salvato lei le sue banche, tutto il resto in Europa dovevano contribuire non più lo Stato, i cittadini, ma in primo luogo gli obbligazionisti, gli azionisti, eccetera, eccetera. Qui quindi si è voluto dare sostanzialmente una lezione, si è voluto dare una sveglia che potrebbe in teoria anche essere utile. Sì, guardi, che ci ricorda molto anche ampia. Lehman Brothers nel 2008, perché lo spirito con cui venne lasciata fallire Lehman Brothers un po' fu anche quello di dare una bella sveglia, che è stata dolorosissima. Però abbiamo visto i danni che hanno fatto sia con Lehman Brothers e sia nel 2011 e sia adesso questa situazione. Quindi, no, peraltro, non era certamente una speculatrice la signora che ci ha telefonato prima, ma nel modo più assoluto, perché la natura stessa di queste obbligazioni allora non erano queste. Tra l'altro non abbiamo ricordato anche la mancata informazione sul profilo di rischio, finisco subito, la mancata informazione sull'evoluzione di questi strumenti, quindi è la cosa grave è che la signora è andata in banca 2 mesi fa e gli ha detto ma cosa succede qui? E questi gli hanno detto ma no, ma che è pazza a vendere adesso? Questa è la cosa grave, perché 2 mesi fa si sapeva il rischio di questa obbligazione, questa è la cosa grave. No, volevo solo richiamare un po' anche le vicende di Lehman Brothers, perché ricordiamo che anche quel caso lì ha provocato un bello shock finanziario per molti risparmiatori che avevano sottoscritto polizze vita i cui rendimenti erano agganciate a obbligazioni di Lehman Brothers. Sappiamo che alcune banche hanno restituito tutto a quei risparmiatori, poste vita, proprio con Alessandro Pedone abbiamo fatto delle puntate sul tema delle poste molto calde, direi di fuoco, per cui poi in realtà molto spesso il sistema finanziario risponde direttamente fino in fondo delle modalità con cui colloca certi prodotti di investimento a rischio. Quindi però se poi ogni anno ce ne scoppia una di vicenda perché le autorità di vigilanza non fanno il loro dovere, volevo sentire magari un commento su questo all'avvocato Gaudiello. Anche perché l'abbiamo lasciata lì un po' in sospeso per un po', Gaudiello. Ho ascoltato con molta attenzione. No, un paio di considerazioni. Allora, in generale il caso che si rappresentava prima, cioè di obbligazioni sottoscritte nel 2007, teniamo presente che la disciplina MiFID, quella di cui si parla tanto, è entrata in vigore il 1 novembre 2007, quindi è possibile che ci siano casi che siano verificati prima di quella data che di fatto erano sottoposti ad altre regole un pochino meno restrittive per il collocamento di prodotti complessi. Però cosa avrebbe dovuto succedere? Cosa doveva fare la banca dopo il 2007? Quello è forse quello che è mancato, e qui c'è anche un pochino una latitanza delle autorità di vigilanza, ma è un fatto tecnico legale, nel senso che dopo quella data, 1 novembre 2007, che è lo spartiacque, gli obblighi informativi sono aumentati. È anche vero però che se il prodotto è stato sottoscritto prima di quella data, sta un po' anche in capo alla banca che l'ha collocata quella obbligazione, verificare che le informazioni siano state aggiunte nel tempo al sottoscrittore. E mi spiego meglio, cioè quando è entrata in vigore la MiFID ha imposto a tutte le banche di riqualificare i clienti. Prima del 1 novembre 2007 c'era soltanto la differenza in gergo operatore qualificato, operatore non qualificato. Con la MiFID invece sono entrate in vigore 3 categorie di investitori: il cosiddetto investitore professionale, il cosiddetto investitore retail, e poi c'è una controparte qualificata, ma è una cosa più tecnica solo tra banche. Ora, quello che dovrebbe essere successo, ma forse non è successo, è che dopo l'entrata in vigore della MiFID i clienti andavano riclassificati con la nuova disciplina. Invece è molto probabile che sia successo che non sono stati mai riclassificati, per cui sono trovati. Esatto, e lo si stava tentando di fare in corsa negli ultimi mesi alla luce del fermento del settore bancario negativo che stava manifestandosi. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che veniva fuori, in generale negli ultimi anni anche in Italia abbiamo avuto una fortissima attenzione su quelli che si chiamano i prodotti complessi e quelli che si chiamano i prodotti liquidi. Che cosa significa? Lo diceva molto bene prima anche il dottor Pedone, cioè come comportarsi rispetto a obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate sono quasi sempre prodotti liquidi. prodotti, cioè prodotti che se io acquisto oggi non è detto che li possa rivendere domani. Sì, l'abbiamo detto tantissime volte con gli amici salvo di Plus. Salvo che non siano quotati, salvo che non, in quel caso appunto la quotazione può garantire una maggiore fluidità. Però resta un punto di fondo, e cioè le obbligazioni subordinate sono un prodotto complesso, cioè un prodotto che per definizione non dovrebbe arrivare all'investitore retail. Se arriva all'investitore retail, come si chiama oggi, è perché evidentemente risulta dalle carte, questo è importante, che sia stato l'investitore a chiederlo ma non la banca a collocarlo. Vabbè, su questo allora, che ci sembra abbastanza sembra fantascientifico, direi ecco, no. Io direi la documentazione cartacea che magari evidenzia da questo, quindi bisognerà stare molto attenti a ricostruire la genesi. Ma non credo proprio che Letizia sia andata in banca alla Popolare dell'Etruria a chiedere datemi una obbligazione vi prego, in ginocchio, la voglio subordinata, se no non la prendo. No, sul tema tra l'altro della vendita di questi prodotti c'è stata una dichiarazione dirompente ieri di Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, che trasmetteremo dopo la borsa, la facciamo risentire anche se l'abbiamo mandata in onda tante volte, perché lui dice a questo punto per legge questa roba qua non deve essere più venduta, deve essere vietata appunto la vendita. Chi volevamo sentire? Io vorrei sentire Laura, come tu suggerivi. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma probabilmente la mia domanda è già stata fatta, ma io non ascolto, non riesco a ascoltare sempre la radio. Io in agosto del 2013 chiesi se fosse possibile vendere le subordinate e mi fu risposto che non era più una cosa possibile. Ecco, è una risposta attendibile stato solo un modo l'altro, lei quando ha sottoscritto l'obbligazione subordinata è andata lei in banca a pregare l'impiegato di farle... Non è il caso di... Però anche in tempi non sospetti, ben nel 2013 lei addirittura voleva disinvestire. Insomma, vogliamo anche capire magari da Alessandro Pedone se effettivamente i vincoli sono così stringenti, se bisogna portarle per forza a scadenza a queste obbligazioni, o seppure danno la facoltà di riscattare e disinvestire un po' in tempi anticipati. Loro mi dicono, sai, ogni anno ti viene restituita una quota a parte, in modo che a scadenza avrai già tutto il capitale, ma questo lo sapevo anch'io. Però grazie, io in quel Laura. Periodo lì avevo visto che c'erano delle cose poco belle nell'aria e ho trasferito una parte del conto, volevo vendere anche quelle, ma mi hanno detto che non era possibile. E adesso Laura ha perso tutto? Sì, al momento certo, io azioni naturalmente, giusto, azioni, obbligazioni, e per il momento è tutto azzerato, ovvio. Laura, allora, dunque, tra l'altro Nicoletta, qua abbiamo un sacco di cose da fare, il tempo è volato. Sì, abbiamo i mercati, abbiamo anche il manifesto per la tutela del risparmio, vogliamo ricordarlo perché sabato il Sole proprio ha pubblicato questo manifesto, 5 punti con i quali le istituzioni che vigilano sul mercato e sul risparmio sono invitate a rafforzare l'attenzione con delle iniziative specifiche, perché sembra abbastanza evidente che i meccanismi di tutela secondo l'impostazione attuale non vadano più bene. Vi leggiamo poi i punti, così io lancio i punti e tu li traduci con Alessandro Pedone, l'avvocato Gaudiello, perché non mi avventurerei mai. Io dico solamente i punti. Il manifesto però è molto chiaro, è molto semplice, ci possiamo arrivare pure io e te, guarda, con un po' di sforzo, che dici? Intanto sforziamoci. Assolutamente, questo aiuta. Esatto, sempre. In tutto questo la borsa oggi. Cuore e denari. A questo punto ci sembra diventato urgente che prodotti come le obbligazioni subordinate ne venga vietata la vendita per legge, perché ci vuole una legge per farlo, al pubblico, allo sportello, al pubblico al dettaglio. Questa è una cosa che noi abbiamo chiesto per un anno intero, in numerosi interventi pubblici, in audizioni parlamentari. Poi la nostra voce a volte è flebile, evidentemente. La seconda riflessione invece riguarda noi. 3 o 4 anni fa abbiamo cominciato a capire che invece dovevamo investire di più nella tutela del cliente e nell'educazione finanziaria. Abbiamo capito da un po' di tempo che occorre pure vigilare sul fatto che le banche agiscano correttamente nei confronti della propria clientela, perché quello è un pezzo della loro solidità. E allora, con tutto rispetto per le parole di Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, dichiarazioni molto importanti, rilevanti, ci sembra però un po' formulate anche quando i buoi sono scappati dal recinto, perché è chiaro che la tutela del risparmiatore debba essere il faro che guida l'azione del sistema bancario, ci sembra che in questo caso non sia avvenuto. Detto questo, però, mi ha colpito molto questa indicazione di Rossi. Avvocato Gaudiello, chiedo a lei un ulteriore commento, perché dice: noi da più di un anno che chiedevamo in ogni sede istituzionale preposta ad ascoltarci che queste obbligazioni subordinate non fossero vendute fra la clientela retail. Una missione implicita ed esplicita contemporaneamente del fatto che queste sono titoli, obbligazioni, prodotti di investimento che fra il pubblico retail non ci dovevano stare, e quindi a maggior ragione poi tutte le persone avranno ragione a dire: allora mi dovete risarcire di tutto. È esattamente il caso che facevo prima io. Cioè, nel discorso della MiFID esiste questo sviluppo del rapporto tra investitore e, diciamo, collocatore o soggetto emittente. Se è l'emittente che mi propone un prodotto finanziario, questa si chiama, diciamo, offerta al pubblico, sollecitazione, che significa è la banca che mi propone qualcosa. In questo caso la banca mi deve tutelare al meglio, ma questo accade quando, diciamo, la banca viene a casa mia, come si dice, fuori sede, con il promotore finanziario. Se però io vado in banca, per la legge, ed ecco, diciamo, la riflessione di Rossi un po' tardiva, per la legge se io vado in banca è come se già sapessi quello che voglio acquistare, e quindi per quanto sia un soggetto retail mi sono recato io in banca, quindi la banca ha in qualche modo meno obblighi, certo, informativi. Vabbè. Questo è il punto, diciamo, tecnico su cui concentrarsi, e mi rendo conto che l'affermazione tardiva, no, però speriamo che non sia un punto tecnico e poi consenta magari in sede legale alle banche di avere addirittura ragione del contenzioso che si aprirà con molti risparmiatori, perché questo veramente avrebbe non solo il sapore della beffa, ma è il cavillo che ti frega. Però il fatto che lo abbia detto in questa circostanza dimostra che quello era un punto debole della catena dal punto di vista dell'informazione, perché se io vado in banca, ripeto, è come se avessi liberamente scelto di come dire, stabilire un rapporto con l'intermediario finanziario. La qualcosa in qualche modo abbassa le soglie, certo, diciamo così, di quella informativa. Sì. Poi veloce, perché ho la batteria, come dice Nicoletta, di ascoltatori. Sentiamoli, però, avvocato, ecco, Gaudiello, poi la faccio concludere, guardi, perché sono in attesa da un bel po'. Maurizio scomoda la Costituzione, l'articolo 47. Maurizio, l'abbiamo fatto aspettare tantissimo, mi scusi, eccoci a lei, veloce, grazie. Sì, buongiorno, da San Daniele del Friuli. Non lancerò bombe, però al limite qualche prosciutto. Ecco, mi veniva, guardi, me l'ha rubata dalla però non attento al sale e alla pressione, però. Sarò molto stringato. In ogni caso, l'articolo 47 della Costituzione recita: la Repubblica tutela il risparmio in ogni sua forma, eccetera, eccetera. Benissimo, ma tutela significa anche controllo. E in questo dissento dall'avvocato Gaudiello. Quindi non c'è stato, secondo me, né controllo né tutela, e non c'è nemmeno tutela. Ha fatto un po' acqua da diverse parti, Maurizio. Io la ringrazio per il suo intervento. Rileggeremo l'articolo 47 della Costituzione, ce lo stamperemo bene in testa e faremo tante fotocopie per tutti. Alberto da Cremona, buongiorno, perché questa invece è una domanda che mi interessa molto e la girerò ad Alessandro Pedone. Alberto, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie mille anche per il servizio che fate per gli ascoltatori. Allora, io ho un'obbligazione di una banca che non è tra quelle coinvolte nel caos di questi ultimi nelle tempi. Quattro, sì. Esatto, sono stato in banca per chiedere se la mia obbligazione è subordinata o meno. Ma non ce l'ha un documento, Alberto, perché questa parola deve esserci scritta nel prospetto informativo che le è stato consegnato. Ecco, purtroppo ho cercato, ma non ho ancora ritrovato, perché l'ho sottoscritta anni fa, per cui non ho ancora reperito il documento fisico materiale, però lo farò sicuramente. La domanda che volevo fare era questa: cioè, posto che la banca mi dice no, tranquillo, perché sono obbligazioni garantite dalla banca ordinarie, quindi ho un sito a disposizione, un luogo dove andare, inserendo il codice della mia obbligazione, a verificare se è tranquilla o meno. Certo, Alberto, allora mi sa già che è venuta un po' di orticaria ad Alessandro Pedone, per cui consegno questo caso al nostro amico. Allora apriamo lo sportello dell'ADUC, Alessandro Pedone. Cosa facciamo fare ad Alberto? Oltre ad insistere col funzionario di banca che, e a ritirare fuori la documentazione dell'investimento. Vabbè, ammettendo che non dobbiamo colpevolizzarlo, chiaramente magari l'ha investito questo denaro un po' di tempo fa, adesso il prospetto non lo trova, il contratto non lo trova, e però la banca gli dovrebbe dire, insomma, con un al computer velocemente ce l'avrà un PDF almeno di questo documento, no? Sì, infatti. Allora, all'amico nello specifico gli diciamo che ovviamente ci invia il codice ISIN e glielo diciamo noi, ovviamente questo va da sé. In generale, purtroppo, il mondo delle obbligazioni è molto molto vasto e non esiste un sito dove si possa mettere il codice di tutte, stiamo parlando di migliaia e migliaia di obbligazioni, e si può scaricare il regolamento. Purtroppo non è neanche detto che tutte le volte che si negozia un'obbligazione la banca abbia l'obbligo di dare il prospetto, perché l'obbligo di dare il prospetto è con l'obbligazione in emissione, ma se uno acquista l'obbligazione nel mercato secondario, cioè dopo che sia stata emessa, non c'è l'obbligo di consegnare il regolamento dell'obbligazione. Però questa mi pare che sia una diversa, che sia appunto una emessa direttamente dalla banca, perché è proprio appunto quello che gli ha detto il funzionario. Bisogna capire appunto in quali di questi due casi ci troviamo. Quindi, due parole solo, rapidissime, se posso, sulla un po' la sparata del direttore della Banca d'Italia dicendo noi lo dicevamo già di non vendere. A parte il fatto che io leggo con molta attenzione tutti gli interventi della Banca d'Italia e non mi ricordo di queste così grandi pressioni, quindi posso sbagliarmi io, sicuramente è vero quello che ha detto il direttore, ma io non ne ho ricordanza. Però il concetto è che non si può ovviamente vietare la singola operazione, ma ciò che dovremmo fare, e una battaglia che noi dell'ADUC proponiamo da tanti anni, è proporre l'opzione standard, cioè è importante che chi va in banca dica qual è la sua esigenza e si presenti una opzione che è certificata dalle autorità di controllo e si dice questa cosa qui sicuramente non ti fai male, così come per l'elettricità noi abbiamo il contratto a maggior tutela o il contratto dei liberi mercati, è importante che il risparmiatore dica io ho un'opzione che è vigilata e su questa non mi faccio male, dopodiché se voglio fare delle cose diverse allora mi devo rendere conto di essere in un territorio dove devo stare un po' particolarmente attento, magari devo avere un consulente o qualcuno che diciamo è esperto che mi dica effettivamente le cose, che non è il bancario, perché ricordiamoci che il bancario è l'oste che ci vuol vendere il vino, non è quello che ci consiglia o ci dice se il vino è buono. Quindi avere un'opzione standard è un parametro centrale, fondamentale per avere una tutela concreta degli investitori, non una tutela di una serie di leggi che ci dicono che le banche dovrebbero fare tutto, dovrebbero fare l'interesse dei risparmiatori, ma poi nei fatti sappiamo che firma qui. Perché prima dicevamo che è vero che sicuramente nessun risparmiatore è andato di sua iniziativa a chiedere queste obbligazioni, ma quante di queste obbligazioni nei fogli che abbiamo firmato c'è scritto che in realtà la richiesta è venuta dagli investitori? Molto spesso è stato così, nel caso del convertendo BPM che è stato anche richiamato dai nostri ascoltatori via SMS. Infatti, tanto tra tutte le situazioni di risparmio tradito, chiamiamolo così, anche questa vicenda è stata... Quindi ecco, avere un qualcosa di concreto, cioè un'opzione standard che ad ogni esigenza di investimento sia la banca sia obbligata a indicare uno strumento che è vigilato, che è consigliato dalle autorità di controllo, dove su quello non ci facciamo male. Però insomma questo è ancora il futuro, dottor Pedone. E bisognerà naturalmente insistere per andare su questa strada, intanto però dobbiamo affrontare questi casi. Prima di sentire il traffico, magari io Anna da Perugia la sentirei, avevi preso appunti per altri messaggi, Nicoletta? No, mi stavo scorrendo i 5 punti del manifesto del Sole. Allora, sentiamo Anna, perché questa ha bisogno di un parere legale, questa situazione. Anna, benvenuta. Buongiorno e grazie di avermi richiamato. Dunque, volevo chiedere una cosa molto semplice. A me sono tra i azionisti, addirittura ho sottoscritto anche l'aumento di capitale con Banca delle Marche. Sì. Ma detto questo, non ho chiamato per lamentarmi, voglio sapere se posso avere diritto ad una documentazione che attesti la minusvalenza. Certo, per quantomeno portarla. Può dare un vantaggio da un altro punto di vista. Bella domanda, Anna. Adesso Gaudiello qua, chissà se questa, la mettiamo a lavorare. Se questa cosa qua l'ha studiata. A tra poco, dopo il traffico. e denari. Allora, noi stiamo andando verso il termine di questa trasmissione speciale, ma siccome andremo avanti con questo percorso anche nei prossimi giorni, tutti coloro che sono rimasti fuori stamattina dalle telefonate, mettetevi in coda per domani, dopodomani, perché manteniamo questo monitoraggio, questo faro puntato, come l'abbiamo chiamato all'inizio, per fare in modo che non si spenga troppo rapidamente. Detto questo, avvocato Gaudiello, allora Anna molto consapevolmente le dice, poverina, non mi voglio lamentare, anche le azioni di Banca Marche. Allora, lei dice, detto che non recupero più niente perché chiaramente il capitale di rischio va in fumo completamente, anche lì bisognerebbe anche capire le non modalità di dal fondo. Esattamente, il fondo, guarda, ma quantomeno la minusvalenza può avere una certificazione della Good Bank, della nuova Banca Marche, del nuovo fondo di risoluzione gestito da Nicastro, che dica tutto il vecchio, io adesso non lo so, faccio un'operazione mentale anche probabilmente di fantascienza finanziaria, però può portare almeno in dichiarazione dei redditi questa perdita? A quella sicuramente, diciamo, una cosa che può fare ed è previsto da un altro degli emendamenti che sono in discussione attualmente sulla legge di stabilità. Sì, è senz'altro prevista questa misura. E chiaramente è prevista tra le norme che dovranno essere approvate, quindi è una ipotesi che si sta facendo e sicuramente lo potrà, se dovesse andare in corso insomma, di approvazione la norma, lo potrà fare. Però la signora chiedeva un'altra cosa, cioè se poteva in qualche modo chiedere alla banca la minusvalenza, cioè l'entità della minusvalenza subita. Dal punto di vista proprio legale, tecnico, lei questa cosa non la può chiedere alla banca, al più può alla banca, diciamo, portare quella che è una perizia di parte con la quale dimostra che ha subito questa perdita, che peraltro ormai è abbastanza anche di facile dominio per via delle informazioni che tutti abbiamo, ma insomma quantificare la perdita sulla scorta di una verifica ad hoc e poi in ragione di questa perdita eventualmente, come dicevamo nella trasmissione la settimana scorsa, agire contro i vertici della banca che hanno di fatto causato la perdita di valore delle azioni, perché il vero strumento per un azionista, cioè per chi investe in capitale di rischio, è lamentarsi nei confronti di chi, amministrando la società, la banca in cui ha investito, ha comportato il depauperamento dell'investimento azionario fatto. Un diritto, diciamo, ad essere informata circa la minusvalenza non ce lo ha in senso stretto. Può senz'altro, io proverei, lo dico da avvocato, certo, fare un reclamo alla banca, che il reclamo è uno strumento, diciamo così, una a quale banca fa reclamo adesso, avvocato Gaudiello? Alla vecchia Banca Marca, alla Bad Bank, al fondo di risoluzione gestito da Nicastro, o va alla Good Bank, alla nuova Banca Marche nata dal provvedimento del 22 novembre? Dove come va? Dicevamo, alla nuova banca, perché inevitabilmente il soggetto che si trova in capo una serie di responsabilità, volente o nolente, è il nuovo soggetto. Il vecchio soggetto è stato espropriato di una serie di responsabilità e quindi quasi non avrebbe, diciamo, obbligo di rispondere. Invece il nuovo soggetto ha questo obbligo. Quindi va da Nicastro, va da Roberto Nicastro? Sì. Anna, magari se non ha capito ci scriva, le metteremo un po', se ci proviamo con l'avvocato Gaudiello a farle una piccola consulenza legale per questa sua situazione. Allora, in realtà noi abbiamo ancora un paio di minuti di tempo prima di andare alla nostra favola di Natale. Sono molto indecisa Ivan da Bergamo aspettava più di Antonio e Alessandro, che a questo punto invito a chiamarci domani perché non riusciamo ad ascoltarvi. Ivan, velocissimo, grazie. Allora, velocissimo, era per dire che fino a metà degli anni 2000 l'autorizzazione per emettere i prestiti obbligazionari subordinati era autorizzata dalla Banca d'Italia. Bisognava andare in Banca d'Italia a chiedere la possibilità di emettere un subordinato da comprare nel patrimonio di vigilanza. Da metà degli anni 2000 questa autorizzazione non è stata più richiesta e quindi le banche hanno cominciato a emettere a IOSA obbligazionari subordinati. Grazie, e quindi da qui tutta poi lo scarico di responsabilità. Ivan, la ringrazio per la sua osservazione. Pedone, volevo aggiungere qualcosa su questa ricostruzione fatta da Ivan? Sì, vorrei aggiungere che erano addirittura fiscalmente agevolate. Per fare l'emissione delle subordinate. Comunque la risposta alla signora di prima, la minusvalenza a norme attuali è possibile solo se c'è una cessione a titolo oneroso tecnicamente, cioè se si vende. In questo caso di fallimento, a meno che non venga approvato l'emendamento che è in commissione bilancio, non può essere portata e quindi non si possono compensare con le eventuali plusvalenze avute fino a norma attuale. Certo. Se passerà questo emendamento, finalmente un'altra battaglia che noi chiediamo da tantissimo tempo, almeno poter portare a compensazione le perdite, mi sembra veramente il minimo sindacale, come lo potete oggi non esatto. Così. Allora, io vi ringrazio per esservi resi disponibili per tutta questa trasmissione. Vi rimetteremo insieme, vi risentiremo nei prossimi giorni insieme ad altri ospiti e colleghi del Sole. Volevo solo per flash leggere ai nostri ascoltatori che lo avessero perso i 5 punti del manifesto per la tutela del risparmio, che è un'iniziativa del Sole 24 Ore, sono stati pubblicati sabato, me li abbiamo pubblicati continuamente in questi giorni. Leggiamo punto per punto, Nicoletta, poi magari nei prossimi giorni commentiamo. Oltre la MIFID, tutela potenziata per il risparmio, certo. Poi netta separazione fra erogazione del credito e vendita dei prodotti, questo è un punto veramente al quale teniamo moltissimo. Non si può andare in banca, chiedere un mutuo e la banca ti dice il mutuo però te lo do, ma in cambio ti prendi anche questa obbligazione, è una cosa inaccettabile. Maggiore diversificazione del rischio di portafoglio, infatti l'hai lasciata a me, diversificare. È assurdo che tutto il denaro del risparmio di una vita venga concentrato in un'unica obbligazione bancaria, state attenti, diversificate il vostro portafoglio. Punto 4. Sanzioni mirate, revocatorie sulle forzature di vendita. E poi controversia davanti alla Consob e maggiore educazione finanziaria. Insomma, ogni punto richiederebbe una puntata a sé, ma magari la faremo. Allora Nicoletta, adesso direi che prenderci un attimo di pausa, naturalmente ci torneremo ancora sul tema domani, non dimenticate che Cuore Denari seguirà la vicenda e sarà vicina ai risparmiatori in difficoltà, quindi continuate anche a scriverci via mail cuoredenari@radio24.it. Lavora anche al pomeriggio, gli sportelli non vengono mai chiusi, ma prima di salutarci stacchiamo, come diceva Deborah, un attimo, lasciamo da parte un po' le nostre preoccupazioni dando spazio alla nostra favola di Natale. Ogni giorno fino al 24 di dicembre nel corso del programma Andrea Vitali, accompagnato dalla musica della band lombarda dei Solutumana, ci legge un breve brano della sua favola di Natale che si intitola I grandi non dicono mai la verità, pensa tu. Uno per giorno, come un vero e proprio calendario dell'avvento. Ogni giorno un incipit che voi ascoltatori potete continuare scrivendo ogni giorno un pezzettino, al contributo più interessante che verrà scelto dalla redazione una copia del libro con la favola di Andrea Vitali. Naturalmente il podio è sulla nostra pagina. Adesso l'incipit del giorno. Tredici fortune cadono di venerdì, 14 piume fan volare il colibrì, 15 minuti per stirare la camicia, 16 solletti come viene la Galicia. Il camino più stretto del mondo apparteneva a una casa che stava a 14 ore di volo dal Polo Nord. Era una casetta abitata da una mamma che si chiamava Piede che sfiora l'erba e da un papà che si chiamava Occhio che guarda est e dalla loro figlia che si chiamava Prima di diventare grande. Approfittando del buio notturno, la renna Rudolph, con sulle spalle tutta la mole di Babbo Natale, volò con la massima velocità di cui era capace alla volta di quella casetta. Una volta giunta lì, scaricò il babbo. «Sbrigati a fare la prova», gli disse. Di lì a un po' sarebbe sorta l'alba e bisognava evitare che qualcuno vedesse una renna e Babbo Natale in giro per i cieli quando mancavano ancora parecchi giorni a Natale. Il babbo si infilò nella canna fumaria, poi sparì alla vista della renna. «Andiamo bene, babbo?» chiese la renna dopo un po'. «Andiamo bene?» Ma la risposta di Babbo Natale si perse nell'aria. «Babbo, mi senti? Ci sei?» chiese ancora la renna. Ma da Babbo Natale nessuna risposta. Cosa poteva essere successo? La neve. Speriamo che non siano andati in banca. No. Allora, da Babbo Natale nessuna risposta. Cosa poteva essere successo? Continuate voi, andate sul sito dove potete anche riascoltare l'audio e proseguite con un commento. Avete tempo fino a mezzanotte. Intanto, ma domani... esatto, rifaccio un brusco risveglio della realtà. I nomi delle nuove banche commissariate, ci chiedono tanti ascoltatori. Allora, ve li mettiamo sul nostro profilo Facebook. Andate a controllare su Cuore Denari e lì vi mettiamo l'elenco. E domani vi aspettiamo, sempre alle 10:30. Buona giornata da Nicoletta e Deborah, ciao.